Diamoci un taglio, un po' rimane nell'immaginario della ghigliottina. Allora, diamoci un taglio in quel senso può essere proprio il vedere la testa dei re, no, degli sfruttatori, degli oppressori popolari, però in realtà più in generale, appunto, dentro questa avventura, direi, editoriale, significa proprio diamoci un taglio rispetto a tutta quella che è una narrazione dominante che di fatto da un lato è falsa, da un lato è fortemente ideologico e quindi prova ad imporre in qualche modo con tutte le sue ramificazioni, con tutto il suo potere, una retorica che in qualche modo prova a convincere assolutamente della bontà del sistema in cui ci troviamo, invece le vittime di questo sistema, quindi sono gli oppressi, sono gli sfruttati, sono gli discriminati e quant'altro, da ovviamente tutte le varie forme di discriminazione, imperialismo, colonialismo e sfruttamento capitalistico che invece appunto ci piovono addosso. E in relazione a questo, quindi diamoci un taglio e proprio prendiamoci la parola usando, come dire, la nostra visione di mondo che non può essere condivisa e non può essere la stessa invece di chi impone quella visione di mondo che invece crea diciamo, lo stato di cose presenti. Ecco, io non voglio, come dire, già farti e farvi inimicare i colleghi italiani, però cos'è che manca secondo te al giornalismo, insomma, nel nostro paese, proprio in base alle cose che mi hai appena detto? Ma sicuramente manca molto pluralismo, nel senso che non si può e non si riesce più a parlare, non so, per esempio di Marx, no? Che dal 2008 effettivamente è dovuto essere riscoperto a buona ragione dalla maggior parte dei quotidiani, dei settimanali, anche mainstream, liberali, inglesi, americani, francesi. Tutto questo in Italia in qualche modo è proprio, come dire, censurato. E non è possibile perché sappiamo benissimo che tutta, diciamo, la teoria liberale e tutte le sue rappresentazioni poi politiche o meno non riescono a descrivere e a spiegare i fenomeni attuali. Il giornalismo italiano, tra l'altro, non ha neanche di dove ci può essere l'intelligenza e l'intuizione che serva altro, il coraggio di portarlo avanti di fronte a invece il blocco di potere che governa l'informazione in Italia. Ecco, allora a questo punto ti chiedo quali saranno i temi principali che Jacobin seguirà. No, in termini di temi affrontati, diciamo, saranno molti, ovviamente adesso stiamo chiedendo il primo numero per il cartaceo, stiamo già avanzando su quelli che saranno i primi articoli per il sito, che invece sarà online, diciamo, a fine ottobre, prima della pubblicazione del primo numero cartaceo, quindi da un lato ci occuperemo ovviamente dell'incompatibilità tra il capitalismo e la democrazia in tutte le sue forme, e quindi come leggere in qualche modo tutti questi fenomeni, come dicevo prima, di razzismo, fascismo, discriminazione, violenza sulle donne all'interno di una matrice come dire, materialista. Quindi se vuoi anche riprendere l'analisi e l'elaborazione fondate su una teoria, diciamo in qualche modo solida, che è quella del materialismo storico che ci viene da Marx, e anteporre invece a quella una retorica, una narrazione, una visione di mondo che poi alla fine è molto moralista, come sappiamo per esempio sui temi del lavoro di cui ne abbiamo spesso parlato. Quindi ci occuperemo di femminismo, di lotta alle disuguaglianze, di storia. Storie della sinistra, senza entrare probabilmente nelle che sono le beghe degli ultimi orticelli rimasti in questo paese. È una cosa importante che invece ci siamo detti di voler fare e soprattutto davvero sprovincializzare il dibattito italiano cercando di discutere anche i fenomeni e quello che si muove nella società fuori dal nostro paese, descrivendola, diciamo, a fondo, per esempio le esperienze che ho vissuto io adesso a Liverpool alla conferenza del Labour, non è soltanto la posizione di Corbyn rispetto alla Brexit, ma è capire il consenso di quel 40% che oggi Corbyn ha, chi sono le persone che partecipano in massa a quegli eventi e perché, di cosa si discuteva in quei 3 giorni lì, che ovviamente non era soltanto la Brexit, ma era la necessità, per esempio, di riappropriarsi proprio di una visione di socialismo, diciamo, nella sua versione originaria, quindi in questo lotta alle disuguaglianze, nazionalizzazione, democrazia nell'istruzione, sanità universale e così via. Proveremo quindi a tradurre il dibattito e contestualizzarlo, no? Per un pubblico italiano, che però non deve essere solo il pubblico degli addetti ai lavori o di quelli che sono stati militanti nel tempo, ma proprio dare delle nuove chiavi di lettura a tutto quel blocco, a quel pezzo di società che in realtà in qualche modo vive ed è anche vittima, no, di una forma di informazione ormai dossipara che va avanti con soltanto dei video, slogan fatti su Facebook. Ecco. Prendo spunto da una cosa che hai detto, perché sembra che in Italia, appunto nel nostro provincialismo, ma immagino forse in realtà siano dinamiche presenti anche altrove, è stata un po' imposta una narrazione dicotomica tra, per usare un'espressione di Fusaro, il globalismo e quello che è il nazionalismo. E Jacobin ci può dimostrare che c'è, adesso non uso il termine terza via perché ci ricorda Blair, però insomma c'è un altro modo di vedere le cose. Esatto, c'è un altro modo di vedere le cose, dipende da qual è la teoria e la visione delle cose con cui vengono affrontati questi fenomeni. Cioè, globalizzazione è il risultato comunque di un processo politico e quindi vanno spiegate quali erano le forze in campo e quali sono stati gli interessi supportati e protetti da quelle scelte politiche, che poi alla fine sono gli stessi interessi che il nazionalismo, l'abbiamo visto per esempio in Italia con la crisi del 92, ha voluto proteggere, cioè i profitti e non i salari, non i diritti dei lavoratori. Quindi in questo senso nazionalismo e globalismo vanno appunto analizzati in termini di classe e sulla base di questo vengono in qualche modo poi, anche se vogliamo, sia criticati o avallati come potenzialmente, come diciamo, dei potenziali meccanismi di emancipazione o liberazione, se vogliamo, di quel blocco sociale maggioritario, non soltanto in Italia, ma in tutti i paesi. E allora a questo punto ti faccio un'ultima domanda: quali saranno gli appuntamenti, insomma, almeno da qui all'uscita del primo numero? Ma appuntamenti sicuramente desche redazione ne avremo tanti, perché appunto dobbiamo rivedere, cercare, scrivere ancora molte cose. Appuntamenti, non divulgo nulla di quello che saranno le prime presentazioni eccetera, ma ci saranno appunto proprio all'uscita del primo numero, e quindi stiamo parlando di inizio novembre. L'unica cosa che posso dire è che appunto di cose da fare ne abbiamo tantissime, quindi anche per questo invitiamo, no, sia il sostegno che la collaborazione di chi ha qualcosa di intelligente e approfondito da dire, per poter anche moltiplicare questi appuntamenti. Saranno però tutti divulgati ovviamente sia tramite il sito che tramite la pagina Facebook, quindi seguiamo quella e pian piano divulgheremo tutto.